e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Buongiorno e buona settimana a voi e a te Deborah, buona settimana. Anche a te, buongiorno. Il lunedì lo sappiamo, è dura, non gode di buona fama, tanto che molti, molti vorrebbero passare proprio dalla domenica direttamente al martedì. Proprio per questo motivo allora ho pensato di iniziare con un aforisma di Goethe che ci dà la carica. Allora, state bene a sentire. Qualunque cosa tu possa fare, qualunque sogno tu possa sognare, comincia. L'audacia reca in sé genialità, magia e forza. Comincia ora. Voglio come ti proprio senti? Sentire dove vuoi arrivare. Guarda, vai, scomodando Goethe, sentiamo la questione di benessere di stamattina. Era proprio per darci un po' la carica e allora speriamo, dopo questa ricarica di energia positiva, cominciamo la nostra puntata di oggi. A proposito di sogni, ti porto e vi porto in America. Dal 1 febbraio, come sapete, è partito il rally delle elezioni presidenziali che si concluderà il prossimo giugno. Tra i candidati, uno in particolare ha stuzzicato la mia attenzione, perché in più interviste ha parlato della sua salute e in particolare della sua tiroide. Sto parlando di Hillary Clinton e noi non potevamo certo lasciarci sfuggire l'occasione. Abbiamo, come si dice, preso la palla al balzo per tornare a parlare di questa piccola ghiandola a forma di farfalla o ad H, se preferisce, preferite, localizzata alla base del collo, che come sappiamo gioca un ruolo importantissimo per la nostra salute, per il benessere generale del corpo. E soprattutto torniamo a parlare di tiroide, perché c'è uno studio recentissimo che evidenzia un aumentato rischio di cancro della mammella nelle donne affette da ipertiroidismo. 800 24 00 24, noi vogliamo leggere questa notizia naturalmente insieme alla nostra esperta, con la letteratura scientifica, no? L'attualità proprio sulle nostre sul nostro banco, e quindi vi invitiamo a chiamarci se volete intervenire, raccontarci la vostra storia, chiarire un vostro dubbio. Il nostro numero verde è valido per tutti, First Lady, ex First Lady comprese. Ed è valido anche per chi sta pensando, magari farà questo investimento proprio quest'anno, di comprare casa, ma non nella modalità ordinaria, ma attraverso una procedura specifica che è quella dell'asta giudiziaria. Noi ne parliamo spesso di italiani e casa, perché sono tante le modalità di acquisto alternative al comune mutuo, c'è l'affitto con il riscatto, c'è la casa in leasing di cui abbiamo parlato recentemente, che è la grande novità recente, e spesso appunto ci dimentichiamo di quest'altra via che si può percorrere, che è proprio quella dell'acquisto di immobili tramite la partecipazione ad un'asta giudiziaria. Oggi ci torniamo su questo argomento ricordandovi come funziona questa procedura, come ci si muove per cercare immobili da acquistare in questo modo, ma vogliamo soprattutto partire, sempre legandoci all'attualità, da una novità degli ultimi giorni, perché viene dato l'addio all'imposta di registro per chi acquista immobili nelle aste giudiziarie. Al posto del precedente 9%, chi compra dovrà versare soltanto una tassa piatta da 200 euro ad una condizione precisa: il bene dovrà essere rivenduto nei 24 mesi successivi all'acquisto. Quindi 800 24 00 24 se state valutando questa opzione d'acquisto, se ve ne hanno parlato e se vorreste saperne qualcosa di più, oppure se già conoscete la procedura ma qualche punto non vi è chiaro, siamo a vostra disposizione dalle 11.20. Le statistiche parlano chiaro, le donne sono più colpite degli uomini da disturbi della tiroide. Hillary d'altronde lo dimostra, Deborah. I motivi di questa preferenza sono essenzialmente due. Gli estrogeni, gli ormoni femminili, favoriscono l'eliminazione dall'organismo dello iodio, e senza iodio nel sangue la tiroide non fa ormoni tiroidei, né li immagazzina e li rilascia quando servono. La seconda ragione si spiega con la predisposizione tutta nostra, quindi femminile, per le malattie autoimmuni, e non di rado la causa di un funzionamento alterato della tiroide dipende proprio da questo. Insomma, a un certo punto, per motivi ancora sconosciuti, l'organismo comincia a produrre degli anticorpi che aggrediscono la ghiandola, che va letteralmente in tilt, insomma perde un po' la bussola, come si dice, finisce col lavorare troppo, troppo poco, producendo quindi quantità troppo scarse di ormoni tiroidei, si parla in questo caso di ipotiroidismo, troppo elevate come nell'ipertiroidismo. Tra poco, insieme alla nostra esperta, individueremo i sintomi di queste due condizioni, quindi state pronti. L'invito è anche per gli uomini, mi raccomando, perché anche se è un debole per le donne, può dare filo da torcere anche a voi. Quindi prestate attenzione, nel caso vi riconosciate chiamateci subito. 800 24 00 24, un numero verde da comporre anche e soprattutto se state assumendo una terapia sostitutiva atta, cioè a sostituire la funzione della tiroide, per raccontarci se fa effetto oppure se il livello degli ormoni tiroidei resta un po' ballerino. Allora, oggi parleremo, come anticipato, anche di uno studio che è stato appena pubblicato sul Giornale Europeo di Endocrinologia. Si tratta di uno studio osservazionale danese secondo cui le donne affette da ipertiroidismo presentano un rischio aumentato dell'11% di sviluppare un tumore della mammella, mentre quelle ipotiroidee risultano più protette da questo tumore rispetto naturalmente alla popolazione generale. Naturalmente lo studio fornisce anche un razionale di tutto questo. Ne parleremo con la nostra esperta, che intanto andiamo subito a salutare. È tornata a trovarci, e questo ci fa molto piacere, la professoressa Laura Fugazzola, professore associato di endocrinologia all'Università di Milano. Buongiorno professoressa, bentornata. Buongiorno, buongiorno a tutti. Abbiamo tanti temi da affrontare, proprio perché questa ghiandola può funzionare troppo, troppo poco, infiammarsi, diventare sede di neoplasie, ma andiamo per ordine. Allora, partiamo da qualche informazione di base. È una ghiandola multitasking, nonostante le piccole dimensioni tiene un po' la nostra salute in pugno, perché controlla un sacco di cose, il metabolismo, le sue principali funzioni come il battito cardiaco, lo sviluppo del sistema nervoso centrale, l'accrescimento corporeo, la pressione, il livello di colesterolo, il peso. Infatti molti di noi, no, la collegano magari l'aumento di peso, dicono non è che mangio tanto, è la tiroide, anche la forza muscolare, eccetera, anche la condizione della pelle. È in certo senso, professoressa, una sorta di centralina elettrica, se non funziona tutto il corpo ne risente, ed ecco che compaiono una serie di sintomi, segnali più o meno chiari, che possono proprio essere la spia di un funzionamento per eccesso o per difetto di questa ghiandola, che, come in tante occasioni lei ha avuto modo di spiegarci, per stare bene e per fare bene il suo lavoro non deve fare né troppo poco, un po' come dovremmo fare noi, professoressa. Sì. Vero? Sì, sì, è vero, è assolutamente vero, ha perfettamente ragione. È anche vero che i sintomi sono molto spesso i sintomi di un cattivo funzionamento della tiroide, sfumati, e possono essere anche confusi con sintomatologie che derivano dall'alterato funzionamento anche di altri organi o apparati. Quindi è sempre necessario uno specialista per individuare in maniera precisa il cattivo funzionamento della tiroide. Però iniziamo a far ascoltare ai nostri ascoltatori i segnali legati a un alterato funzionamento. Quindi se la ghiandola funziona poco, questa condizione va sotto il termine di ipotiroidismo, potrebbe segnalarcelo con questa batteria di segnali. Sei spesso affaticato anche senza ragione? Nell'ultimo periodo hai notato una riduzione della memoria? Hai una stipsi ostinata nonostante movimento e dieta ricca di fibre? Il volto e le gambe sono spesso gonfi? Sei a dieta e fai fatica a dimagrire? Noti che le tue unghie e i tuoi capelli sono fragili e tendono a spezzarsi? Il tuo colesterolo negli ultimi tempi è un po' elevato, nonostante nella tua dieta non ci siano eccessi? Allora, professoressa Fugazzola, un po' subdola, parla un po' il politichese questa tiroide, perché i disturbi di cui può essere causa potrebbero essere attribuiti ad altre condizioni, ma il sospetto deve venire, ma soprattutto a chi? Ci sono dei profili di persone più a rischio o età della vita in cui la tiroide è più vulnerabile? Sì, effettivamente, come avevi detto all'inizio, il sesso femminile è decisamente più colpito. Per esempio nell'ipotiroidismo 8 donne contro un uomo sono colpite da ipotiroidismo, quindi estremamente più frequente nel sesso femminile, soprattutto nella mezza età, quindi intorno ai 50 anni generalmente c'è il picco di incidenza delle patologie tiroidee, che però stiamo osservando adesso anche in altre fasce di età e per esempio anche nell'età più giovani, proprio perché c'è una maggiore attenzione anche a individuare le patologie tiroidee, quindi a fare risalire a una sintomatologia, a un problema tiroideo. come è stato detto in questa bellissima scheda, effettivamente i sintomi sono spesso aspecifici, come per esempio l'aumento di peso, che raramente è dovuto solo a un cattivo funzionamento della tiroide, ma spesso ha altre motivazioni naturalmente, così come i capelli cadono frequentemente anche magari per lo stress al quale noi siamo sempre sottoposti. Ma per esempio ci sono dei sintomi che sono dei segni molto specifici, per esempio l'innalzamento del colesterolo deve sempre far pensare a una situazione di ipotiroidismo, perché è una delle prime cose che si alterano ed è proprio indicativo di un alterato funzionamento della tiroide. Quindi occhio ai livelli di colesterolo se non sono soprattutto, no, anche motivati da una storia, perché ci sono delle persone, certo, che hanno già il colesterolo quasi di famiglia alto. Certamente. Allora, insieme a questo anche la astenia immotivata, quindi una stanchezza, proprio la sonnolenza immotivata e diversa rispetto al solito, deve far pensare a un alterato funzionamento della tiroide. Direi che questo è proprio uno dei sintomi più classici, l'astenia e la sonnolenza. Professoressa Fugazzola, abbiamo sentito i sintomi della tiroide che funziona poco, ma se invece funziona troppo, ci racconta quali sono i segnali anche sfumati che ci può mandare? Allora, generalmente l'ipertiroidismo è meno subdolo rispetto all'ipotiroidismo. Quando si manifesta abbastanza chiaramente, e la sintomatologia più frequente è la tachicardia. Quindi un'aumentata frequenza cardiaca, anche qua a riposo, per esempio notturna, quando uno è a letto ed è tranquillo, non ha pensieri, non ha stress, invece sente questa tachicardia, questo è uno dei primi sintomi dell'ipertiroidismo, che si può associare, quando l'ipertiroidismo è un po' più grave, anche a fini tremori. Per esempio uno fa per prendere un bicchiere, nota un tremore della mano che prima non aveva, e così come una sudorazione esagerata, per esempio. Questi sono tutti sintomi di ipertiroidismo. Allora, tra i 6 milioni circa di italiani che soffrono di patologia tiroidea sono comprese anche le quote azzurre, perché anche gli uomini possono trovarsi a fare i conti con una tiroide che lavora per difetto o per eccesso. Uno studio multicentrico compiuto in sinergia tra l'endocrinologia aquilana, le cattedre di Modena, Roma e Firenze di qualche anno fa ha evidenziato una relazione piuttosto stretta tra malfunzionamento della tiroide e problemi sessuali. Lo commenteremo tra poco, subito dopo le informazioni sul traffico. Andiamo a sentire che cosa succede sulle strade, sulle autostrade, e subito dopo parleremo anche di terapia. Quando è giusto somministrare l'ormone che manca attraverso una terapia sostitutiva? La terapia è a vita? E poi parleremo dei risultati dello studio osservazionale danese di cui vi ho parlato, ma anche della relazione tra cancro alla mammella e cancro alla tiroide. Tra l'altro è una neoplasia, quella della tiroide, che sta aumentando in tutte le fasce di età. Di tutto questo parleremo con la professoressa Fugazzola, che resta con noi in questa prima parte di Cuore Denaris. Ci stanno aspettando subito Alice da Roma e Marco da Milano, che sentiremo dopo le informazioni sul traffico. A tra poco. Progetto Fuoco, Fiera di Verona, 24-28 febbraio, progettofuoco.it. Vi presenta Cuore e Denari. Ogni volta che vedo il mare provo qualcosa di strano. Non so, come un senso di... Ma... Sarà lo iodio. No, non è che lo odio. In una puntata dedicata alla tiroide non poteva certo mancare un accenno allo iodio. Senza iodio nel sangue, infatti, la tiroide non fa ormoni, i tiroidei ne li immagazzina e li rilascia quando servono. Per questo è suggerito e consigliato, anzi dovrei dire raccomandato, professoressa Fugazzola, l'uso del sale iodato. Certamente, assolutamente è obbligatorio, è una grande battaglia che gli endocrinologi hanno fatto, finalmente è disponibile ovunque, anzi è il sale di scelta iodato, il sale iodato, quello fine e quello grosso, che devono essere utilizzati sempre da tutti a qualunque età, per proprio aiutare, dare una mano alla nostra tiroide a produrre gli ormoni tiroidei. Facendo questo noi evitiamo che la tiroide, diciamo, si sforzi troppo e produca quindi dei noduli e aumenti di dimensioni. Allora, diamo la parola ai nostri ascoltatori che ci permettono con le loro domande e i loro interventi di dare delle informazioni anche a carattere generale per le persone che ci stanno ascoltando. Partirei, se sei d'accordo, Deborah, da Alice. Andiamo. Buongiorno. Visto che la tiroide femmina colpisce di più le donne, mi sembrava quanto mai pertinente iniziare da una gentil signora. Alice, buongiorno. Eccoci. Alice, sì, ma troppi complimenti. Meno male che abbiamo Marco da Milano, vedi, un cavaliere. Marco, buongiorno. Buongiorno, mi sentite? Sì, forte e chiaro, Marco. Perfetto. Allora. Siete, io porto un po' la mia esperienza che, diciamo, circa un anno fa mi ha fatto preoccupare parecchio, nel senso che avevo dei malesseri un po' generali, soprattutto, diciamo, la temperatura del corpo piuttosto elevata. Senso, sì, di debolezza, che non capivo come mai mi arrivava questo senso. E poi una perdita di peso veramente importante, cioè, nel senso, io mi ricordo, perché parlo di un anno fa, però sì, in un mese ho, certo, perso tipo 10-12 kg, cioè che da un certo punto di vista dici, vabbè, interessante, potrebbe, però da quel punto di vista ho capito che c'era qualcosa che non andava. E chiaramente sono ipertiroideo, per chi non sa cosa vuol dire, insomma, quindi la tiroide, funziona troppo, in eccesso. È su di giri, io, ecco, lo dico. Avevo una domanda specifica o era solo... No, niente, era solo portare un po' la mia esperienza. Grazie, perché Marco, perché sono dei segnali... Mi scusi Marco, sono, prego, dei segnali che preoccupano, questa perdita molto, no, quasi improvvisa, certo, di peso. Professoressa Fugazzola. Certo, questa è la sintomatologia di un ipertiroidismo conclamato, che effettivamente porta anche a questa grossa stanchezza. Perché? Perché l'organismo è continuamente stimolato dall'aumentata produzione di ormone tiroideo. Io dico sempre, è come se il paziente corresse la maratona continuamente, notte e giorno, e sopra questa maratona va anche a lavorare, va a fare magari ginnastica, va a fare la spesa, quindi una stanchezza incredibile e ovviamente una perdita di peso associata a questo. Allora, andiamo ad Alice, che dalla regia mi segnalano che l'abbiamo, è stata riacciuffata. Buongiorno Alice. È tornata. Io purtroppo niente perdita di peso, ecco, volevo subito precisare. No, allora, io ho chiamato perché hanno scoperto che ho una tiroidite. E me ne sono accorta perché, come raccontavano prima, nei sintomi sentivo una stanchezza mai provata prima, mm-hmm, e delle cose strane, cioè un seno molto molto abbondante, piedi gelati, cioè tutta una serie di caratteristiche che poi ho scoperto fanno parte dell'ipotiroidite. Però il mio problema è questo: tutti mi dicono che ho questa malattia autoimmune, ma nessuno, sì, mi spiega che cosa devo fare, per cui sono quattro. Brava Alice, avanti. Allora, professoressa Fugazzola, il quadro di Alice, allora, è abbastanza chiaro, le mancano dei dettagli? Sì, sono comunque dei sintomi, questi che ci ha raccontato Alice, comunque aspecifici, perché in ogni caso la stanchezza è un sintomo che tanti possono accusare per svariati motivi, così come l'aumento di peso e il gonfiore e i piedi gelati, che possono essere dovuti magari a un'alterazione nella circolazione. Quindi per fare una diagnosi in questo caso è fondamentale avere un dato biochimico, cioè avere il valore di TSH perlomeno. Quindi nel caso in cui il valore di TSH fosse superiore ai livelli normali, facciamo diagnosi effettivamente di ipotiroidismo, che è dovuto a una tiroidite, quindi a questa autoimmunità, questi anticorpi che si attaccano alla tiroide, diciamo, e progressivamente la distruggono. Solamente nel caso in cui ci sia effettivamente un'alterazione della funzionalità, quindi questo TSH elevato, è indicato l'inizio della terapia con ormone tiroideo, quindi la terapia sostitutiva a cui accennavi tu prima, Nicoletta. Sì. Ecco, un altro, sì, sintomo importante, per esempio nella donna in età fertile, di alterata funzionalità tiroidea, è un'alterazione del ciclo mestruale. Questo effettivamente è una delle prime cose che si verificano nelle donne, appunto, in età fertile, quindi un'alterazione del ciclo, sia generalmente nel senso di una amenorrea, quindi un oligomenorrea, una riduzione del numero dei cicli nell'anno. Allora, quindi il consiglio per Alice e per le persone che sospettano, a parte l'invito è sempre di parlarne con il medico di medicina generale, giusto, professoressa Fugazzola, certo, che prescriverà l'esame per misurare i livelli di TSH, questo ormone che è prodotto dall'ipofisi, e il suo livello indica la quantità di ormoni tiroidei circolanti. Dose elevate di TSH indicano che la tiroide fa fatica a funzionare, insomma i due sono inversamente proporzionali, TSH alto, ipotiroidismo, è corretto? Esatto, esatto, a parte rarissime condizioni, generalmente è così, quando il TSH è alto vuol dire che sta cercando di stimolare la tiroide e dice alla tiroide guarda che gli ormoni che mi stai facendo non mi bastano. E allora si dà, si interviene con un trattamento ormonale sostitutivo perché si ritiene debba essere poi seguito anche per tutta la vita, no? Certamente, nella tiroidite cronica il trattamento è ovviamente per tutta la vita perché è una malattia cronica. Certo è che l'efficacia del trattamento potrebbe essere compromessa da errate modalità di assunzione, da alcuni farmaci che ne possono ridurre l'assorbimento e anche di alcuni integratori. Tra poco, dopo il GR, raccoglieremo le vostre domande e chiederemo alla professoressa Fugazzola se ci sono, come va assunta il trattamento ormonale sostitutivo. Citeremo naturalmente anche lo studio per cui ci state chiamando, che correla una relazione tra le donne affette da ipertiroidismo e lo sviluppo di tumore alla mammella. C'è poi anche un'altra meta-analisi che mette in evidenza sempre una relazione tra tumore della mammella e tumore della tiroide. Di tutto questo parleremo dopo il nostro GR, ma voglio ricordarvi che oggi si i 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Cuore e denari. Eccoci, veloci veloci, siamo tornati. Come avete sentito dalle anticipazioni del nostro GR, ci stiamo occupando di tiroide. In linea con noi abbiamo il piacere di avere la professoressa Laura Fugazzola, associato di endocrinologia all'Università di Milano. Professoressa, eravamo arrivati al trattamento ormonale sostitutivo, insomma quando l'ormone manca si aggiunge, però l'efficacia del trattamento può essere compromessa da una serie di fattori. Allora, e ci sono anche ascoltatori che ci scrivono che nonostante assumano la terapia i valori non ritornano mai ai livelli corretti. Che cosa è importante sapere? Allora, la terapia con tiroxina è una terapia assolutamente tranquilla, non dà effetti collaterali né nessun problema, può essere associata a qualunque altro farmaco. C'è solo un problema, la tiroxina ha bisogno di uno stomaco, diciamo, vuoto per essere assorbita correttamente e quindi deve essere proprio il primo farmaco che viene assunto al mattino a digiuno e tutti gli altri farmaci e la colazione devono essere assunti invece a distanza di almeno 20-30 minuti. Poi ci sono alcuni farmaci che sono particolarmente nocivi all'assorbimento della tiroxina e sono per esempio tutti i gastroprotettori, l'omeprazolo che viene adesso così tanto utilizzato, viene spesso consigliato come assunzione al mattino. In realtà questo inibisce tantissimo l'assorbimento della tiroxina, così come per esempio l'assunzione del calcio. Anche il calcio va a interferire tantissimo sull'assorbimento della tiroxina. Il calcio viene assunto adesso anche da molte donne, per esempio, che sono in menopausa con osteoporosi, quindi devono assumere il calcio e devono ricordare che se assumono anche la tiroxina, il calcio va assunto magari dopo i pasti principali, quindi dopo pranzo e dopo cena. Quindi devono passare un po' di ore per evitare che un farmaco interferisca con l'altro. Ci sono adesso delle nuove formulazioni di tiroxina, che sono queste formulazioni liquide, che invece sembrerebbero avere un migliore assorbimento proprio perché sono liquide, e quindi con queste formulazioni liquide abbiamo la possibilità di far passare meno tempo prima della colazione, generalmente 10 minuti, e questo è una cosa che viene gradita molto dal paziente, perché al mattino siamo sempre di corsa, far passare 20-30 minuti tra il risveglio e la colazione a volte è impossibile. Sì, comporta mettere la sveglia un pochino prima e siamo già troppo di corsa. Professoressa Fugazzola, un commento ai due studi che citavo in apertura. Le donne ipertiroidee presentano un rischio maggiore di sviluppare un tumore della mammella, è uno studio osservazionale danese che aggiunge che quelle ipotiroidee sembrano più protette da questo tipo di neoplasia rispetto alla popolazione generale, e volevo chiederle anche un commento che ha suscitato molto interesse da parte delle nostre ascoltatrici riguardo a quella meta-analisi che confronta mette in evidenza una relazione tra il tumore della mammella e il tumore della tiroide. Allora, iniziando dallo studio danese, fatto come sempre per questi studi danesi su una popolazione molto vasta, perché loro hanno tutte le registrazioni perfette della sanità, questo studio danese ci fa vedere questa, sembrerebbe esserci un aumento di incidenza di tumore della mammella nelle donne ipertiroidee rispetto alle ipotiroidee. Va detto che era già stato segnalato, già addirittura dagli anni 90, un'aumentata incidenza di tumore della mammella nelle donne invece proprio ipotiroidee, quindi autoimmunità tiroidea che determinava ipotiroidismo. Secondo me, naturalmente questo studio è molto interessante e va preso in considerazione senza dubbio, necessita di conferme. Esiste sicuramente un bias, nel senso che le donne ipertiroidee sono molto più medicalizzate, quindi più frequentemente vanno dal medico rispetto alle ipotiroidee. L'ipertiroidismo è una patologia che necessita di controlli continui, quindi è anche più frequente che il medico dica: ma lei però c'ha 40 anni, l'ha fatta la mammografia? Quindi una maggiore attenzione per le donne ipertiroidee, che potrebbe anche spiegare questo. Certo. Perché in realtà non esiste una base scientifica provata che correli l'ormone tiroideo allo sviluppo di tumori da nessuna parte, proprio non solo a livello mammario, quindi questa cosa naturalmente andrà poi rivista, rivalutata in altri studi e ripensata un attimo. Per quanto riguarda l'associazione tra il tumore del seno e il tumore della tiroide, anche questa associazione è nota, infatti si tratta di una meta-analisi, vari studi lo hanno segnalato, e anche in questo caso va detto che sempre si tratta di due patologie molto frequenti nella donna, sì, e molto frequenti soprattutto nell'età media. Quindi questa associazione non ci stupisce tanto, perché sono ormai diventati due tumori più frequenti nelle donne in età media, e quindi è facile che siano associati. Mentre lo sottolineiamo in modo che le persone possano seguire tutte le appropriate linee guida per il controllo, esatto, e lo screening, cioè esatto, per suggerire un'attenzione, esatto, che dovremmo avere tutti, ma in modo particolare chi ha avuto già una neoplasia. La mammografia, sia la mammografia che l'ecografia della tiroide, sono degli esami che sono comunque facili da eseguire, sono consigliati. La funzionalità tiroidea deve essere controllata sempre dopo i 50 anni. Questa è un'indicazione che in Italia ancora non esiste, ma per esempio in America sì, perché la patologia tiroidea è estremamente frequente, quindi le donne devono saperlo, anche perché la sintomatologia, come dicevamo, è subdola spesso. Allora, intanto, professoressa Fugazzola, la ringrazio, abbiamo dato delle informazioni importanti, abbiamo chiarito alcuni aspetti, perché questi studi stanno circolando e creano molta affanno e preoccupazione nelle donne. Intanto volevo, nel salutarla, raccontarle che da oggi parte questo progetto di cui con Deborah siamo molto fieri, Più Unici Che Rari, Cuore Denari con la Fondazione Telethon, per tutto il mese di febbraio, quindi fino al 29, parlerà di malattie rare. E in questo progetto abbiamo deciso di partire proprio dalle storie di chi ha visto cambiare il corso del suo destino da una patologia che spesso ha un nome difficile da pronunciare, a volte senza nome. E sulle nostre pagine naturalmente potrete ascoltare anche la voce di chi crede che ogni vita è importante e per questo ha scelto di dedicare la sua vita alla ricerca per trovare le soluzioni e le cure. E anche vi racconteremo di bambini che oggi stanno aspettando una terapia che permetta loro e alle loro famiglie di tornare a vivere una vita normale, ma di quelli anche che grazie ad una terapia sono tornati a giocare e a sorridere. Ci sono tante testimonianze, l'invito che vogliamo rivolgervi è di partecipare come se fosse una piazza per raccontare la vostra esperienza, ma non solo, anche se non le malattie rare non sono presenti nella vostra famiglia, proprio per dare un po' un sostegno, perché i malati hanno bisogno anche di questo, di una vita normale, di persone che non sono toccate dalla malattia ma che raccontano un pezzo della loro quotidianità. Professoressa Fugazzola, contiamo anche su di lei e intanto le auguriamo una buonissima giornata. Grazie a tutti, buona giornata. Signore e signori, è chiaro che non posso accettare offerte al di sotto dei $10,000. Lo so, sono tanti 30. Soldi. $30,000, signore e signori! Direte forse che sono uno sciocco sentimentale, ma non ho sentito dire 35? 35? $35,000! 40? $40,000, signore e signori! $45,000? $45,000! $50,000, signore e signori! Non posso crederci, è straordinario! 50.001, 50.002, signore e signori! $1,000,000! Allora, la dinamica di partecipazione ad un'asta la conosciamo bene, anche se magari non abbiamo mai partecipato direttamente, neanche io. Avete presente il famoso pacchetto banche varato mercoledì scorso dal governo, quello dove c'è la riforma delle banche di credito cooperativo di cui abbiamo parlato venerdì scorso? Ebbene, in quel provvedimento c'è anche dell'altro, c'è anche una misura che a molti non dirà nulla e invece è una misura molto importante per il rilancio del settore immobiliare, almeno per un certo segmento di questo. Viene dato l'addio all'imposta di registro per chi acquista immobili nelle aste giudiziarie. Al posto di questa aliquota del 9%, chi compra dovrà versare soltanto una tassa piatta da €200. Fate un po' le proporzioni e potete quantificare bene il risparmio. C'è però una condizione precisa da rispettare. Il bene dovrà essere rivenduto nei 24 mesi successivi all'acquisto. Il governo ha pensato in questa maniera di ricorrere alla leva fiscale per provare a rimettere in moto il mercato delle vendite giudiziarie e naturalmente cerca anche di ridurre la svalutazione di almeno il 9% delle sofferenze bancarie legate appunto agli immobili dati in garanzia per prestiti e mutui. Allora noi abbiamo colto l'occasione, naturalmente prendendo a spunto questa notizia, per fare il punto sull'acquisto di una casa nell'ambito di un'asta giudiziaria. La procedura è abbastanza complessa, ci sono state molte novità che sono intervenute in questo mondo negli ultimi anni, novità che hanno voluto anche renderlo un po' più semplice da frequentare. Chissà se così è stato, lo chiederemo al notaio Arrigo Roveda, presidente del Consiglio Notarile di Milano, che salutiamo. Ben ritrovato, notaio, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori. Allora, naturalmente ci aspettiamo tante domande da parte vostra. 800 24 00 24, raccontateci se state valutando l'acquisto di una casa all'asta, se ve ne hanno parlato e vorreste saperne qualcosa di più, se già conoscete la procedura, l'avete studiata negli ultimi anni, perché sapete è un meccanismo da conoscere molto bene, molto attentamente, e se state pensando di fare un investimento per comprare e rivendere nel giro di poco. Poi su questa condizione ci soffermeremo attentamente. Allora, dobbiamo ricordare prima di tutto che nella grande attività di divulgazione che il Consiglio Nazionale del Notariato ha fatto negli ultimi anni e sta continuando a fare, c'è anche la pubblicazione della guida scritta con la collaborazione delle associazioni dei consumatori, Acquisto all'asta, un modo alternativo di comprare casa. Allora la segnalo, notaio Roveda, ma naturalmente segnalo anche che va un attimino rivista proprio alla luce delle ultime novità, per cui per tutti gli interessati che in questo momento andassero o sul sito di qualche associazione dei consumatori per reperire la guida o sul sito del Consiglio Nazionale del Notariato trovano tutto l'ABC per l'acquisto della casa all'asta naturalmente senza però le ultime novità fiscali, direi. Perché le diciamo noi. Le diciamo noi, notaio Roveda, quindi ve le dobbiamo scrivere noi. Ecco, bisogna passare da Cuore Denari. Notaio, allora, dovete fare manutenzione straordinaria della guida senza però avere nessun incentivo fiscale. Allora, già la guida era in fase di modifica e aggiornamento perché da agosto di quest'anno erano entrate in vigore alcune novità in materia di aste immobiliare. Naturalmente dovrà essere aggiornata anche con l'ultimissima novità, che diciamolo subito non è ancora in gazzetta ufficiale, quindi certo. Il nostro legislatore ci ha abituato anche a sorprendere. Per ora ragioniamo sui testi che sono stati esattamente non è la punta... tramite stampa, ma non sono ancora ufficiali. Esatto, bravo. Però possiamo ragionare su quello che sappiamo fino a questo momento. Allora io voglio leggere subito il messaggio di Diego che ci scrive: ricordate per cortesia che dietro ad ogni asta c'è sempre una storia drammatica. È talmente vero, Diego, che io le voglio raccontare anche questo dato che abbiamo reperito mentre stavamo preparando la trasmissione. A dispetto delle polemiche che accompagnano i dati sul numero delle famiglie che non riescono a pagare il mutuo, il numero delle procedure esecutive che si attivano quando una famiglia o un'impresa sono pesantemente insolventi, a dispetto appunto di queste polemiche, dicevo, il numero in realtà è abbastanza contenuto, perché a fine dicembre scorso il numero delle case all'asta in Italia risultava in calo sui sei mesi precedenti di quasi il 7%. Allora, le procedure in corso, a nostro giudizio, sono sempre tante, troppe, proprio perché dietro ad ogni numero c'è una storia drammatica di una famiglia, di un'impresa, Diego. Quindi condividiamo con lei questo messaggio e naturalmente lo ribadiamo, insomma, certo. Però le procedure in corso sono 28.672, all'inizio a luglio del 2015 erano quasi 31.000, quindi c'è questa riduzione perché non perché le banche siano diventate brave, belle e buone, tutt'altro, ma comunque intanto sono consapevoli che il valore degli immobili è drasticamente calato negli ultimi anni e quindi un'asta non le fa rientrare dei capitali erogati alle famiglie o alle imprese. E poi molto spesso anche questi immobili che andrebbero così riversati sul mercato tramite le procedure esecutive spesso sono immobili non di pregio, case normali, per cui ecco il mercato non è neanche particolarmente interessante magari per gli investitori professionali, per cui è anche vero poi che negli ultimi anni le banche, prima di attivarsi con le procedure esecutive, magari rinegoziano 10 volte con le famiglie il mutuo per permettere loro di pagarlo. Fatto questo preambolo, le storie drammatiche ci sono, ma ci sono anche delle opportunità di investimento per qualcuno. Notaio Roveda, le chiedo subito un commento su queste novità fiscali degli ultimi giorni. Che ne pensa? Una prima precisazione è che non è un addio all'imposta del registro, ma un arrivederci, perché secondo i testi che sono stati diffusi questa è una norma fiscale transitoria che vale per le aggiudicazioni fatte fino al 31 dicembre 2016. In questo momento il limite è questo, poi se verrà prorogato non è dato di sapere, ma è un'agevolazione del tutto temporanea. Sarà l'ennesimo, come lo chiameranno già in molti, notaio Roveda, perché io già sono pronta a vedere qualche titolo di giornale regalo alle banche per evitare appunto che questo peso delle sofferenze bancarie sia un po' più lieve? È un provvedimento sicuramente che va nella giusta direzione. Se non vogliamo parlare di regalo alle banche, possiamo però dire che non è un regalo a chi vede nell'asta il modo per risolvere il suo problema di soluzione abitativa, cioè non è chi compra per andare ad abitare che potrà beneficiare di questa agevolazione fiscale. Senta notaio, prima di andare a specificare bene la novità fiscale della quale stiamo parlando questa mattina, come potrà appunto alimentare o meno il mercato immobiliare, quello che passa nel mondo delle procedure esecutive, appunto ci spiega in che momento della procedura esecutiva interviene il notaio, perché sennò molti ascoltatori naturalmente si chiederanno perché avete interpellato questa professionalità. Qual è il momento in cui voi dovete suggellare con un atto formale la definizione della compravendita immobiliare attraverso l'asta? Il notaio nelle procedure esecutive, così come l'avvocato o il commercialista, è un delegato dal giudice. Cioè il legislatore qualche anno fa ha ritenuto di, me lo consenta, mettendolo tra virgolette, privatizzare una parte del processo esecutivo affidandolo a dei professionisti delegati che quindi bandiscono l'asta, curano le pubblicità, tengono la vera e propria asta, abbozzano decreti di trasferimento, ne danno pubblicità nei registri immobiliari, svolgono tutte quelle attività che non sono propriamente giurisdizionali del processo esecutivo. Quindi un ruolo bel impegnativo, insomma, notaio. È un ruolo molto impegnativo, sì, molto complesso, devo dire anche di una certa soddisfazione, perché i problemi di diritto nell'esecuzione immobiliare sono molti e aiutare le persone a risolverle di soddisfazione. Quindi allora, siccome non intervenite solamente nel momento in cui c'è il rogito e quindi magari una famiglia, una persona si è aggiudicato un immobile all'asta e deve essere definito il passaggio di proprietà, e questo passaggio generalmente si definisce davanti ad un notaio, voi non intervenite più lì ma ben prima in tutta una serie di passaggi, per cui posso già cominciare a suggerire ai nostri ascoltatori, notaio, nel caso in cui fossero coloro che ci ascoltano attirati dalla partecipazione ad una procedura esecutiva per aggiudicarsi un immobile perché magari lo trova particolarmente conveniente e ha la liquidità per farlo, di farsi una chiacchierata a priori con un notaio per farsi spiegare bene tutti i passaggi, tutte quelle che potrebbero essere le difficoltà anche della partecipazione ad un'operazione di questo tipo. Che dice? Sì, difficoltà ma anche i vantaggi, che sono numerosi, di acquistare tramite un'asta. Comunque, quando uno ha intenzione di guardare al mercato delle aste, una chiacchierata con il notaio fa bene, perché esistono tutta una serie di peculiarità di questo tipo di acquisto che è bene conoscere. Infatti, fin dal momento in cui si decide di affrontare la Esatto, allora, tanto per spiegare bene la questione della novità fiscale da cui siamo partiti questa mattina, allora poi andremo a raccontare tutti i passaggi della partecipazione ad un'asta, a cominciare dalla consapevolezza della pubblicità degli immobili, dal fatto che si possono visitare prima di andare a fare le offerte in un'aula di tribunale o in una sede che viene fissata appunto per questa operazione, quindi molte novità rispetto al passato, quando queste offerte venivano quasi fatte un po' a scatola chiusa perché non si conosceva quasi neanche la natura, la caratteristica dell'immobile in questione. Ammettendo appunto di aver già individuato l'immobile per il quale si vuole presentare un'offerta, questo immobile vale 200.000 euro, notaio Roveda ci spiega appunto in termini di fiscalità come era prima la situazione, che cosa cambierebbe con la novità a cui sta pensando il governo. Come per ogni acquisto può essere applicata l'imposta di registro o l'IVA a seconda del venditore e della natura del bene. Andiamo sull'imposta di registro, che è quella statisticamente più rilevante. Se uno acquista un'abitazione all'asta, può pagare il 9% o il 2%, a seconda se è una prima casa è il 2%, o se è una abitazione diversa dalla prima il 9%. Se è un privato che acquista, la base imponibile è il valore catastale; se è un imprenditore, se è un professionista che acquista, la base imponibile è il prezzo di aggiudicazione. L'agevolazione consiste nel eliminare l'imposta proporzionale di registro, quindi il 2 o il 9, sostituendola con un'imposta fissa di 200 euro, se chi si aggiudica si impegna a vendere il bene acquistato all'asta entro due anni. No, perché stavo quindi pensando, chiaro, no, notaio, mi scusi, ma perché allora viene solo enfatizzata la questione dell'imposta di registro al 9%, su quella del 2% nessuno ha fatto nessun cenno, invece in realtà anche quella verrebbe cancellata perché? E sostituita dall'imposta piatta? Perché visti i presupposti, cioè l'impegno a rivendere entro 24 mesi, certo, una prima casa, è probabile che sia una prima casa. Chiaro. Quindi è un beneficio fiscale destinato prevalentemente a soggetti diversi dal consumatore, certo, e quindi a professionisti che comprano e rivendono per speculare, o addirittura le stesse banche che preferiscono ritirare dall'asta questo bene per poi rivenderlo e in questo modo gestire in prima persona il recupero del loro credito. Questa norma in qualche modo è parente della un'altra norma introdotta dalla legge di stabilità, che è quella del leasing abitativo. Sì. Quindi consentire alle banche di finanziare l'acquisto non tramite un mutuo ma tramite un leasing, che consente alle banche stesse di rimanere proprietarie del bene e quindi di non passare per la procedura. Ne abbiamo già parlato, peraltro anche questa insomma è stata un po' ribattezzata come una norma che vorrebbe agevolare anche l'acquisto della prima casa, soprattutto per le giovani coppie e chi non ha grandi disponibilità finanziarie per partire con l'anticipo di un mutuo. Ci dedicheremo un'altra puntata, l'abbiamo già fatta sotto Natale quando siamo venuti a conoscenza di questa novità, ma naturalmente ci ritorneremo. Stamattina soffermiamoci sulla procedura esecutiva. C'è Laura da Roma che vuole intervenire, la sentiremo direi dopo i mercati. Dopo, dai. Sì, dopo. Cuore e denari. 80 per 80. acrilico su tela. La valutazione di quest'opera, signori, è 70-100.000. Questo è un autore internazionale, si triplicherà nell'arco di pochi anni. Stiamo parlando di aste questa mattina, ma un po' diverse rispetto a quella di cui abbiamo sentito questa così, promozione commerciale. Stiamo parlando di aste immobiliari che possono essere una strada da percorrere per trovare la casa dei propri sogni, è un'opzione che non sempre viene presa in considerazione, anche perché questo mondo era un po' così circondato, se vogliamo, da un alone di mistero, per dirla con delicatezza. In realtà un mondo frequentato molto spesso anche da persone di discutibile profilo e reputazione. E dopodiché negli ultimi anni ci sono state delle novità. Adesso gli immobili all'asta si possono visitare anche prima di poter fare un'offerta. C'è la figura nuova del custode giudiziario, per cui tante novità che hanno cercato di rendere un pochino più chiaro questo panorama, più trasparente questo mercato. E abbiamo adesso la novità fiscale per chi partecipa ad un'asta giudiziaria nel tentativo di fare un acquisto di un immobile. Appunto, c'ha questo beneficio fiscale, non paga più un'imposta di registro del 9% se è un investitore professionale, o del 2% se è un acquisto per una prima casa, ma c'è questa imposta piatta di 200 euro. Quindi una grande sintesi, notaio Roveda, che è con noi stamattina, il nostro ospite, presidente del Consiglio Notarile di Milano. Avevamo terminato il ragionamento precedente, notaio, o l'ho interrotta brutalmente? Ma volevo solo dire che esiste un disegno del legislatore evidentemente di cercare di ridurre il numero delle esecuzioni immobiliari pendenti. Ecco, questa, quindi anche a chi contesta un po' queste novità, perché non le ha capite fino in fondo. Comunque l'agevolazione spetta per i beni acquistati entro il 31 dicembre di quest'anno, no? Notaio, perché qua abbiamo un provvedimento transitorio, come lei diceva, e riguarderà le persone fisiche, le quali, come gli istituti di credito e le imprese, dovranno sempre rivendere il bene nei due anni successivi. 800 24 00 24, il numero verde per tutte le vostre domande. Allora, siamo pronti con Laura da Roma. Buongiorno a lei. Buongiorno Nicoletta. Buongiorno. Un saluto al notaio. Allora, io sono un paio di mesi che noi siamo una famiglia, abbiamo deciso di tentare questa strada un po' da soli e quindi ci siamo affacciati a questo mondo. Abbiamo guardato le perizie sul sito del tribunale. Ne abbiamo adocchiate due che potevano essere vicine al nostro, a quello che poteva servirci. Il vostro budget, Laura, in sostanza. Esatto, ovviamente. E devo dire, è un mondo ancora un po', nebuloso. Sì. Intanto abbiamo contattato il notaio e il notaio, pur volendo fissare un appuntamento, non ci riceve e non ci risponde mai al telefono. Adesso ci dà in privato il numero, il numero e il nome, perché poi il Consiglio Nazionale del Notariato lo va a pizzicare, vediamo se si comporta. Io ho dovuto mandare delle mail, un notaio importante a Cola di Rienzo, ho dovuto mandare delle mail, anche la terza, anche un pochino, non ho mia abitudine, sostenuta, un pochino forzata. Risentita. Esatto, perché e poi mi hanno solo dato il recapito di chi ci veniva ad aprire, che ovviamente non ha poi non è lo stesso colloquio, permettetemi, certo, no, ovviamente. Il notaio avrà molte più informazioni. Cosa. Quindi questo conforto che diceva il vostro ospite dal notaio non siamo. No, lei non ce l'ha avuto, Laura. Fatto bene a segnalarcelo. Assolutamente, anche numeri sbagliati, insomma, una disattenzione proprio che dovrebbe essere invece una garanzia. Voglio essere veloce. Noi adesso ho due o tre domande. Una, ho un immobile di cui ho saputo per mie vie, perché sono andata, mi sono fatta guardare le cose. Sì, le chiedo un po' di sintesi, Laura, vada con le domande. Sì, ho saputo che un immobile dei due che stiamo vagliando, uno, se dico bene, è una divisione di un bene comune e mi dicono che sarà vuoto al momento in cui passa l'asta, in cui c'è l'acquisto. E l'altro invece è un immobile dove c'è il debitore dentro. Okay. Dove c'è il debitore dentro, le voci che circolano mi dicono: attenzione, se è una persona con handicap, anziana, con bambini. Prima di liberare l'immobile ci vuole un po' di tempo, per cui anche se c'è la procedura esecutiva in corso, queste persone non si possono buttare in strada. Esatto, perché poi alla fine sì, moralmente può essere un peso, però in questo caso poi come funziona? Laura, grazie. Funziona come con gli affitti? Oppure funziona che devo fare attenzione? Ci deve pensare lei. Laura, grazie. Vorrei dare spazio anche ad altri ascoltatori, però insomma le questioni poste sono tante, ma comincerei proprio dalla prima. Notaio Roveda, ma com'è che questo notaio qua non la riceve, non risponde alle mail, manda un'altra persona ad aprire la casa che non ha le informazioni, e le si sono un po' drizzati i capelli a sentire. Direi proprio di sì. Iniziamo dalle cose che sono ordinarie. Che mandi un'altra persona, un suo incaricato, ad aprire la casa e a tirar su le tapparelle, questo non, ci è, può un, anche non stare. È un problema. Il problema è quello di non dare riscontro alle legittime richieste di chiarimento di una persona che evidentemente dalla perizia e dall'avviso d'asta ha avuto delle informazioni che non le sono del tutto chiare, del suo legittimo diritto che queste informazioni siano chiarite. Io rispondo a domande in astratto, quelle in concreto è difficile senza sentire l'altra campana. Vabbè, però insomma non è un comportamento accettabile, lei ovviamente lo riconosce. Non è un comportamento accettabile. Benissimo. E deve essere segnalato al Consiglio Notarile di Roma perché adotti gli opportuni provvedimenti. Andiamo a questi immobili. Sì, certo, no, vabbè. Andiamo agli immobili su cui Laura avrebbe interesse appunto per partecipare ad una procedura esecutiva, fare un'offerta, poi racconteremo anche come si fa. L'immobili, uno dei due è probabilmente deriva da una divisione di beni, se non ho capito male. La documentazione, sì, questo è uno degli immobili che può essere messo all'asta. Qua non c'è una situazione debitoria precedente, ma semplicemente una divisione non realizzabile tra magari dei coeredi, e quindi in assenza di un accordo tra i coeredi sul prezzo di vendita è il tribunale che lo stabilisce, lo mette, il prezzo, che lo mette all'asta. È molto importante, questo è lo stimolo più importante di quelli suggeriti dall'ascoltatrice, è verificare lo stato occupativo del bene. La documentazione è reperibile sui siti, quelli da cui si prendono le informazioni sull'asta, deve dire se il bene è libero, se è bene occupato, a quale titolo è occupato, perché naturalmente questo è molto importante per l'acquisto che si vuole. Quindi anche quella realizzare. È un'informazione che per esempio si può conoscere sin dall'inizio, quando si decide di partecipare ad un'asta per acquisire un immobile. Nel secondo caso c'è il debitore dentro, ha raccontato Laura. Se questa persona fosse in evidenti condizioni di problemi di salute o anche economici, appunto, notaio, non se ne potesse andare perché non trova una soluzione alternativa, fino a quanto ha diritto di occupare questo immobile, anche se poi la procedura si definisce fino all'ultimo passaggio? Laura ne diventa legittima proprietaria, ma questa persona dentro, se non se ne va? Il decreto che stabilisce l'aggiudicazione contiene anche un ordine di liberazione dell'immobile, che è equivalente a quello dello sfratto che si ha per una finita locazione o per una morosità. Però sappiamo anche gli sfratti in Italia. Dipendono molto da tribunale. Non abbiamo lo sceriffo americano che fa liberare le case in 20 minuti. No, anche perché ci sono per fortuna qualche volta, certo. Di cui il primo ascoltatore ci diceva. Adesso ero molto cinica, ovviamente, però. Certo. Quindi dipende da tribunale a tribunale e da occupante e occupante. Quello che posso dire è che il tribunale di Milano sta anticipando questa liberazione degli immobili, chiedendo al delegato all'asta di procedere alla liberazione dell'immobile prima del decreto. E quindi le procedure che si seguono a Milano in qualche modo sono più veloci rispetto a quelle che ci descrive Benissimo. L'ascoltatrice. E quindi insomma, cosa possiamo suggerire a Laura secondo lei? Di fare un'offerta per il primo immobile o per il secondo? Oppure di cambiare quartiere e andare a cercare dell'altro da un'altra parte, notaio? E intanto cercare magari anche un notaio che risponda alle mail. Beh, quello è difficile perché il notaio è quello lì che segue quell'immobile, quindi ha ragione l'ascoltatrice a lamentarsi di questo mancato ascolto. Di filtrare la ricerca del suo immobile selezionando gli immobili che abbiano che siano liberi, probabilmente. Siccome gli immobili sono veramente tanti, come avete detto all'asta, non faticherà a trovare quello di suo. Che fa a caso suo. Fra un po' abbiamo il traffico, notaio Roveda, ma per cominciare un po' di ABC sulle procedure esecutive, dove troviamo le notizie sugli immobili nella cui asta di vendita è in corso? Il legislatore ha previsto l'istituzione di un portale unico delle aste immobiliari che è in corso di realizzazione. Per ora la fonte migliore sono i siti dei tribunali, del Tribunale di Milano, del Tribunale di Roma e del Tribunale delle principali grandi città. Molti giornali spesso pubblicano anche degli annunci, hanno delle pagine apposite, no? Secondo lei sono la stessa cosa? Sono assolutamente la stessa cosa, la forma di pubblicità sono sia telematiche con questi portali che tradizionali a mezzo stampa. Diciamo che per filtrare le ricerche la ricerca telematica è più efficiente. Mm-hmm. A proposito di telematico, di mondo telematico, ci sono anche le aste telematiche da qualche anno. Paradossalmente da Milano potrei aggiudicarmi, senza andare a visitarlo direttamente, un immobile all'asta venduto a Palermo, ma anche questo è un mondo che si sta vivacizzando proprio da qualche tempo a questa parte. Adesso vedremo anche se funziona questa modalità. Poi ci sono Paolo da Milano, Cristina da Lucca. Datemi solo il tempo di sentire cosa succede sulle strade italiane. Tra poco. Progetto Fuoco, Fiera di Verona, 24-28 febbraio, progettofuoco.it. Vi presenta. Cuore e denari. $2,000, ho sentito 2,500? Io offro 4,000. L'offerta è di 4,000. L'offerta è di 4,000. Ho sentito 5. Qualcuno offre 5? 5,000. $2,500. Qualche tempo fa addirittura una casa a Detroit si poteva comprare con il crollo del mercato immobiliare americano. Comunque siamo lasciati scappare. Esatto, non è proprio una gran città. Ci sono praticamente le grandi industrie automobilistiche, però... ecco, erano le cosiddette città fantasma, che tali erano diventate a causa della pesante crisi immobiliare statunitense determinata dai mutui subprime. Chiusa parentesi, dopo che ho dato sfoggio della mia cultura immobiliare americana che qua si ferma, continuiamo la nostra chiacchierata con il notaio Arrigo Roveda, presidente del Consiglio Notarile di Milano, che ci chiarisce un po' i termini della novità fiscale che riguarda il mondo delle aste immobiliari da cui siamo partiti, la novità di questo periodo a cui il governo pensa, anche se non abbiamo ancora i testi del provvedimento, una misura di carattere transitorio che vorrebbe un pochino rimettere in moto anche questo mondo che a causa della crisi negli ultimi anni si era necessariamente ridimensionato un po' in termini di dinamica. Abbiamo parlato dei veicoli con i quali possiamo avere delle informazioni sugli immobili all'asta, quelli che sono sul mercato, e ci parlava appunto il notaio Roveda dei siti dei tribunali, c'è questo portale nazionale che non è ancora ultimato, no, notaio Roveda, e poi i tribunali delle nostre città. Andando sul sito dei tribunali si possono trovare delle informazioni, quanto sono dettagliate sugli immobili che ci potenzialmente interessano? Sono molto dettagliate perché contengono un'articolata perizia che dà conto dello stato occupativo, dello stato urbanistico, delle eventuali regolarizzazioni che devono essere fatte per opere abusive, dello stato di manutenzione dell'immobile. A proposito dello stato di manutenzione, tenete conto che quando qualcuno non paga il mutuo difficilmente terrà bene la casa, la casa, e che magari, certo, e questa si potrà anche ulteriormente deteriorare dopo la redazione della perizia. Quindi chi compra una casa all'asta deve mettere in conto di comprare una casa da ristrutturare. Ecco, però magari fa un affare in termini economici. Allora 800 24 00 24, abbiamo ancora qualche minuto di tempo per le vostre domande. Cristina da Lucca, ecco, non vedevo l'ora di sentire questa osservazione. Cristina, benvenuta, perché la fanno in molti anche tra coloro che ci scrivono al 349 238 6666. Eccoci Cristina. Cristina? Pronto, buongiorno. Buongiorno, ci dica buongiorno. Tutto. Saluto a tutti. Sì. Allora, io volevo fare questa domanda. Questo impegno di vendita, questa tassa piatta, diciamo, no? Ma questo impegno di 24 mesi. Sì. Ecco, se non si trova il compratore in questi 24 mesi, cosa succede? La rifinisce all'asta un'altra volta, Cristina. Bella domanda, la ringrazio. Allora, notaio Roveda, detto che abbiamo detto che mediamente non sarà... un acquirente famiglia che va all'asta, compra quella casa perché magari la vuole come sua prima casa ed è abbastanza difficile ipotizzare che voglia fare l'operazione speculativa del secolo e rimetterla poi in vendita ad un prezzo triplicato nel giro di 2 anni. Detto questo, qualora anche si verificasse questa situazione, se entro i 24 mesi non si rimette sul mercato l'immobile, che cosa succede? Lo Stato ti richiede l'imposta che non hai versato e che ti ha fatto risparmiare all'inizio? Non solo, chiede anche 30% di soprattassa e gli interessi di mora, quindi non è un grande affare se uno non riesce a rivendere. Quindi insomma, se siamo attirati da questo incentivo fiscale che lo Stato regala in questo momento, cerchiamo di conoscere bene anche le conseguenze a cui andiamo incontro se non rispettiamo tutte le condizioni imposte. L'immobile va rivenduto in 24 mesi, quindi lasciamo questo mondo magari ai professionisti del settore. Bruno da Forlì. Bruno. Sì, complimenti per la trasmissione, buongiorno. Grazie. Buongiorno. Buongiorno. No, senta, io niente, la mia è una testimonianza assolutamente positiva, perché nel novembre scorso mi sono aggiudicato con mia moglie un immobile, ho avuto dal delegato tutte le informazioni, diciamo, di cui avevo bisogno, Direi anche che la procedura è stata fondamentalmente anche abbastanza semplice da seguire, perché trovando tutto sul sito delle aste, compresi gli stampati, ho seguito quello che gli stampati dicevano, ho fatto una chiacchierata col delegato per avere più che altro dei chiarimenti sui termini di pagamento in caso di aggiudicazione. Esatto, ha fatto il mutuo Bruno, perché poi dobbiamo spiegare anche questo aspetto, perché non è necessario avere tutta la liquidità per comprare lì sul lunghi all'immobile. Allora, ancora no, perché io nel frattempo ho venduto la mia prima casa, anzi la sto per venderla, infatti fra un mese, diciamo così, sono al termine per diciamo così pagare l'immobile al tribunale. Successivamente comunque sì, accederò al mutuo prima casa, una volta che mi sono, diciamo così, liberato fra virgolette della mia prima casa, farò comunque il mutuo per la prima casa, certo. Grazie Bruno, meno male che ci ha raccontato di una storia che è andata tutta liscia, notaio, ce ne sono, no? Sì. Esatto, cioè adesso noi chiaramente andiamo sempre un po' a sfrocugliare gli aspetti problematici delle questioni, solo così per rendere un po' consapevoli le persone delle questioni a cui possono andare incontro, quindi trovarci anche preparati. Però qua nel caso di Bruno era un tribunale che funzionava particolarmente bene, come dire, anche ha sentito notaio, no? Un delegato che ha dato il delegato, esatto, se mi veniva il termine. Il 95% al 99% delle storie sono come quelle raccontate a nostri ascoltatori fuori, ma non fanno notizie. Esatto, sempre colpa nostra, tra l'altro. Perché non è colpa vostra, voi naturalmente... Anche un po' nostra, notaio, che a noi piace sempre, come dire, andare ad indagare su quello che non funziona giustamente. Ma detto questo, notaio, in genere... piace leggere o sentire le cose che non funzionano. Notaio, senta, quanto, ammettendo che possiamo raccontare di tanti Bruno in Italia, no? Mediamente partecipare ad un'asta immobiliare, dalla prima visualizzazione dell'immobile che ci interessa, la partecipazione all'asta e all'entrare in casa perché finalmente è diventata nostra, quanto tempo può passare? Bisogna vedere quanto tempo prima lo si vede. Diciamo dal momento in cui ci si presenta a partecipare all'asta a quando si entra nell'immobile, dipende se l'immobile è legittimamente occupato, è libero o illegittimamente occupato. Diciamo da 3 mesi a 8 mesi, a seconda che delle più case o meno migliore, può essere anche peggiore. Il tempo, diciamo, di una compravendita normale, se dobbiamo fare dei lavori, se anche in quel caso magari mettiamo gli occhi su una casa già più o meno occupata, la persona che è dentro a sua volta deve vendere e ricomprare contestualmente, le cose vanno un po' più per le lunghe, per cui ecco mediamente un po' come funziona per il mercato immobiliare tradizionale. Allora, se non ho la liquidità disponibile è sufficiente, ma devo fare il mutuo per l'acquisto della casa all'asta, notaio. Quando e come ci devo pensare? Bisogna pensarci per tempo prima di formulare l'offerta, perché bisogna accertarsi con la propria banca che la banca sia disposta a finanziare per l'importo che ci serve. Esiste una convenzione stipulata dall'ABI che è consultabile sul sito dell'ABI, quindi potete sapere quali banche finanziano gli acquisti all'asta, quasi tutte oramai, presentarsi a questa banca, dare le informazioni sulla propria capacità reddituale, dare la perizia che si è scaricato da internet, quantificare di che percentuale di prezzo si ha bisogno di essere finanziati. Ecco. Se la banca è disposta a seguirci nella nostra avventura, si può partecipare all'asta. Paolo, non partecipate senza avere questa garanzia. Paolo da Milano, la domanda in 10 secondi. Buongiorno, la domanda è questa: io ho una società di trading immobiliare, ho sempre fatto le aste, volevo sapere se a questo punto chiudo la società immobiliare, io posso fare le aste per quest'anno non pagando le tasse che avrei dovuto pagare avendo una società normale. Paolo, grazie. Notaio. No, l'agevolazione è proprio destinata anche a società come quelle del nostro ascoltatore. Però Paolo ci scriva, che il notaio Roveda ci risponde in privato, visto che quest'ultimo caso è un pochino più sofisticato. Grazie notaio Roveda per la chiarezza. Grazie soprattutto. Grazie, buona giornata. Torniamo domani, che dici? Sì, torniamo domani, andate sulla pagina, andate a leggere la storia di Samuel, vi aspettiamo domani.